Buongiorno alla senatrice Poretti. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ci illustra un pochino questo capolavoro dei partiti e dei manifesti, come funziona? Si ha detto bene lei, l'ha votato la maggioranza perché ovviamente il decreto mille proroghe è passato ieri al Senato con un voto di fiducia, però la proposta su questa sanatoria in realtà è, come si dice, bipartisan, nel senso che arriva da un emendamento con una bella doppia firma, Mario Gasbarri del Partito Democratico e Francesco Casoli del Popolo delle Libertà. E come mai c'è questa condivisione di questa cosa così a poco fondata, secondo me? Poco fondata, ma che si ripete annualmente, un rito questo del mille proroghe e della sanatoria sul manifesto selvaggio, che si ripete annualmente a seconda del governo di turno e dell'opposizione di turno, ma l'emendamento arriva sempre con la doppia firma di maggioranza e opposizione, proprio qualificante in questo senso qui, perché poi in realtà il piacere è reciproco. Chi imbratta i muri delle città ad ogni occasione elettorale non c'è distinzione di maggioranza e di opposizione che tenga, e chi dovrebbe pagare quelle multe, che ricordo che per ogni affissione illegale si va dai 400 ai 1000 euro, e che invece con questo bel provvedimento si sana per ogni lista 1000 euro per tutto l'anno, basta farlo entro il 31 maggio del 2011,